Un ragazzo cresce su un'isola tra mare, solitudine e desideri che non sa ancora nominare. Tra scoperte, amori e segreti, Cristina Valente viaggerà nelle commoventi pagine dell'Isola di Arturo di Elsa Morante. Elsa Morante, una delle scrittrici italiane più importanti del Novecento, nacque a Roma il 18 agosto 1912. Crebbe in un ambiente familiare complesso. Il padre legale era Augusto Morante, ma il suo vero padre biologico era Francesco Lo Monaco, un amico di famiglia. Questo segreto, scoperto più tardi, influenzò profondamente il suo rapporto con il tema dell'identità, centrale in molte sue opere. Fin da giovane mostrò una grande passione per la letteratura e per la scrittura. Negli anni 30 cominciò a collaborare con riviste e giornali, riuscendo a mantenersi grazie alla scrittura. Nel 1941 sposò lo scrittore Alberto Moravia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa delle leggi razziali, i due furono costretti a rifugiarsi nel sud Italia, dato che Moravia era di origine ebraica. L'esperienza della guerra, della povertà e della sofferenza degli innocenti segnerà profondamente la sua visione del mondo e la sua narrativa. Il suo primo grande successo arrivò nel 1948 con Menzogna e Sortileggio, un romanzo monumentale che le farà vincere il premio Viareggio. Dopo di questo seguì L'Isola di Arturo, 1957, ambientato a Procida, che vinse il premio Strega e confermò il suo talento. In questi romanzi emergono temi ricorrenti: l'infanzia, la solitudine, l'amore non corrisposto, il dolore della crescita e l'illusione come rifugio della realtà. Nel 1974 pubblicò La Storia, forse la sua opera più discussa e potente. Il romanzo racconta la Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista degli umili e degli esclusi. Negli ultimi anni della sua vita, Elsa Morante visse un periodo di grande sofferenza fisica e psicologica, segnato da malattia, depressione e isolamento. Nonostante ciò, continua a scrivere fino alla fine. Morì a Roma il 25 novembre 1985. Elsa Morante è ricordata come una scrittrice profondamente anticonformista, capace di dare voce ai più deboli e di raccontare l'infanzia e il dolore umano con un'intensità unica. Le sue opere restano ancora oggi fondamentali per comprendere la letteratura italiana del Novecento e il rapporto tra individuo, amore e storia. Tutta la storia dell'Isola di Arturo è ambientata a Procida, una piccola isola nel Golfo di Napoli, dove vive Arturo, un ragazzino che ha perso la madre subito dopo la nascita ed è stato costretto a crescere nella solitudine a causa dei continui viaggi del padre. Abitava nella cosiddetta Casa dei Guaglioni, una casa che si affacciava sul mare. L'isola su cui sorgeva la casa, per lui, era come un rifugio, un universo tutto suo. Ma non sa che quel luogo, che considera così magico, in un certo senso si sarebbe rivelato una prigione. Arturo è un ragazzo che cerca risposte nei libri e nell'amore per un padre idealizzato. Tuttavia, la realtà arriverà in modo lento e crudele e distruggerà tutte le illusioni dell'infanzia. Arturo, in realtà, è solo, ma non si sente tale. Fin da piccolo ha costruito un mondo perfetto attorno a sé, i suoi pensieri, le sue lettere, le sue fantasie, la villa dove è cresciuto, così silenziose e povere di affetti. Al centro di tutto c'è Wilhelm Gerage, suo padre. Per Arturo è un eroe, un uomo libero, forte, coraggioso. Quando parte per i suoi viaggi, Arturo lo aspetta con il cuore in gola. Quando torna, cerca nei suoi gesti un segno, uno sguardo, una carezza. Ma Wilhelm non è un padre affettuoso. Anzi, è piuttosto distante. Eppure Arturo non riesce a vederlo per ciò che è davvero, perché lo idealizza. Questo è uno dei temi più forti del romanzo, il desiderio di essere amati, visti, capiti, anche quando l'amore non c'è. Arturo cresce costruendo la propria identità sull'idea di dover diventare come suo padre, senza sapere che, in realtà, quella che insegue è solo un'immagine falsa. Un giorno il padre porta sull'isola anche una donna, la sua nuova moglie Nunziatella, e da quel momento tutto cambia. Prima di allora, Procida era stato un mondo esclusivamente maschile e Arturo, cresciuto senza madre, aveva sempre immaginato le donne come creature inferiori, perché così gli era stato insegnato. La figura di Nunziatella rompe ogni equilibrio. Lei non è distante come il padre, è vicina, tenera, vera. Per la prima volta Arturo prova un sentimento che non sa nominare, un misto di rabbia, desiderio e ammirazione. La donna, infatti, lo manda in confusione. Arturo comincia a guardare il mondo con occhi diversi, ma fatica ad accettare i nuovi sentimenti che prova. Di lì a poco inizia anche il conflitto con il padre. Willem è sempre stato una figura misteriosa. Un giorno Arturo decide di seguirlo, spinto dalla gelosia, e arriva alla casa del recluso, dove assiste a una scena che lo fa inorridire. Un ragazzo, un giovane carcerato, appare troppo vicino a suo padre. I due compiono un gesto che l'amorante non esplicita ma suggerisce, forse un abbraccio o un bacio, un gesto che conferma ad Arturo che il rapporto tra il carcerato e suo padre è di natura amorosa. Lo vidi e non capì subito, ma dentro di me qualcosa si ruppe, in silenzio. Arturo resta meravigliato, non si muove, non parla, ma dentro di lui crolla tutto. Non è tanto ciò che scopre a fargli male, ma quanto tutto ciò che quella scoperta distrugge. Arturo si rende conto che fino a quel momento aveva innalzato attorno a sé una sorta di fortezza immaginaria, costruita sull'idealizzazione del padre, che da quell'istante smette di essere l'eroe intoccabile che aveva sempre creduto. La sua mente si riempie di confusione, rabbia e dolore. Ha perso l'unico amore che abbia mai conosciuto. Questo è il punto di rottura. Arturo smette di vivere nell'immaginazione e nei sogni e inizia ad aprire gli occhi. Decide di lasciare Procida e si reca a Napoli. Entra così in contatto con il mondo esterno e scopre che non c'è nulla di poetico o eroico, ma solo uomini comuni, fame e confusione. Il viaggio diventa simbolico della delusione. Lo porterà a crescere, ma anche a perdersi. L'isola rimarrà sempre nel suo cuore. È un luogo di fondamentale importanza per lui. Lì ha vissuto la sua infanzia, i sogni, le illusioni, le attese e anche la sua rovina, necessaria per crescere. Con il romanzo L'isola di Arturo, l'amorante riesce a descrivere perfettamente il processo della crescita, che passa inevitabilmente attraverso la perdita delle illusioni. Arturo vive la sua infanzia in un mondo ideale, costruito sull'immaginazione, però tutto quello che immagina non è reale. È una difesa della solitudine e del dolore, e rappresenta una fase della vita in cui tutti, prima o poi, ci riconosciamo. Il momento in cui capiamo che il mondo non è come lo avevamo immaginato. Il romanzo mostra anche come il bisogno di essere amati possa spingerci a costruire immagini false delle persone, soprattutto di chi amiamo di più. Arturo non ama il padre per ciò che è, ma per ciò che rappresenta i suoi occhi. Quando questa immagine si spezza, Arturo è costretto a ridefinire se stesso,